New Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Pier Nicola. Cognome: Pedicini. Età: 46. Nato a Benevento. Eletto in circoscrizione meridionale. Con quanti voti? Circa 36.000 preferenze. Partito politico: Movimento 5 Stelle. Gruppo politico: Della Libertà e della Democrazia Diretta. Segni particolari: destro di braccia, sinistro di piede. Quante lingue parla? Italiano, inglese e francese. Competenze europee in 10 parole: tutela dell'ambiente, energie alternative, sanità pubblica e sicurezza alimentare. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Trivelle, cosa sono, cosa rischiamo, cosa chiedete? Il termine trivelle viene utilizzato per rappresentare il concetto di estrazione di risorse fossili. Con queste estrazioni si rischiano catastrofi naturali con danni irreversibili in caso di incidente, specialmente nei nostri mari, che sono dei mari chiusi. E questi incidenti sono molto frequenti, anche se in molti casi vengono nascosti all'opinione pubblica. Noi chiediamo che queste pratiche vengano progressivamente abbandonate per dare spazio alle energie pulite e rinnovabili. Referendum del 17 aprile. Cosa si vota con il sì, cosa con il no? Il referendum abrogativo riguarda le norme sulla durata delle trivellazioni in mare entro le 12 miglia dalla costa. Al momento lo Sblocca Italia prevede che i giacimenti potranno essere sfruttati fino al loro completo esaurimento. E con questo referendum si chiede di scegliere tra una semplice proroga di queste concessioni alla durata illimitata di queste stesse concessioni. Quindi perché votare sì? Innanzitutto perché per un referendum i cittadini sono comunque sempre chiamati a esercitare un diritto e a svolgere un dovere civico. Noi riconosciamo il limite di questo referendum, che è un limite intrinseco a qualunque referendum abrogativo, ma che comunque serve a dare un chiaro segnale di svolta nelle scelte di politica energetica nazionale, oltre che a ottenere una maggiore considerazione della volontà delle comunità locali che devono poter decidere sul futuro del proprio territorio. In questo scenario la posizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea persegue la politica della decarbonizzazione, questo perché è chiaro a tutti che queste risorse sono le maggiori responsabili del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, dei fenomeni di desertificazione e di una moltitudine di effetti nocivi sulla salute dei cittadini. Per questo l'Unione Europea non solo cerca di implementare politiche di contrasto all'approvvigionamento di queste risorse fossili, ma dall'altro lato cerca anche di incentivare politiche energetiche alternative basate sulle fonti rinnovabili. Le piace fare il politico? Avere l'opportunità di potersi dedicare al bene collettivo è una cosa fantastica. Non capisco come fanno quei politici che hanno questa possibilità e la sprecano per dedicarsi al proprio interesse personale. Un sogno nel cassetto. Un mondo pulito, pieno di bambini che giocano ridendo. Se avesse la bacchetta magica? Farei scomparire per sempre la guerra. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.